Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Occorrente per la puntata di oggi un centimetro, una calcolatrice e un telefono per chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Qui in studio con me il dottor Franco Confalonieri, medico responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, bentornato e buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Allora, usiamo subito la calcolatrice. Sì, usiamo subito la calcolatrice, oggi mi fa partire di corsa, io sono una carburazione lenta. No, usiamo subito la calcolatrice perché oggi parliamo un po' di come siamo fatti, parliamo un po' della nostra pancia e quindi iniziamo, e forse mi hanno chiamato proprio per quello. Non è vero, Iniziamo calcolando il nostro indice di massa corporea, una parola difficile che però rappresenta un indicatore di come siamo fatti. E come possiamo calcolarlo? Dunque, prendiamo il nostro peso e lo dividiamo per la nostra altezza elevata al quadrato. Faccio un esempio pratico. Sì. Poniamo di pesare 100 kg e di essere alti 1,80 m. Quindi dobbiamo fare 100 diviso 1,8, cioè espresso in metri, elevato al quadrato. Avremo un risultato. Che potete raccontarci al nostro numero verde. Che potete raccontarci al nostro numero verde e che dovrete confrontare con i valori di riferimento che vado a darvi adesso. Valori di riferimento sono differenze nella popolazione in persone sottopeso, persone regolari, quindi in forma, persone in sovrappeso e persone obese. Vedo di semplificare e di sintetizzare al molto. Al massimo, se avrete perché un dobbiamo avere dei numeri piccolini. Se avete un risultato compreso tra 16 e 18 o addirittura inferiore a 16, siete sottopeso. Sì. Se avete un risultato compreso fra 18 e 25, siete nella norma. Se avete un risultato superiore a 25, siete in sovrappeso. Superiore a 30, siete addirittura obesi. Quindi noi dovremmo puntare ad avere un valore tra i 18 e i 25. Esatto. 800 24 00 24, ma oggi andremo oltre. Abbiamo bisogno di capire dove e come è distribuito il grasso, perché il grasso non è tutto uguale. In linea con noi abbiamo il professor Piero Montorsi del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tanti numeri, ma un'unica indicazione. Il grasso addominale a voi cardiologi non piace, sta un po' sullo stomaco, come si dice, perché? Ma è molto semplice, perché il grasso addominale non è mai da solo e si porta dietro una serie di compagni di viaggio che sono assolutamente negativi per il nostro sistema cardiovascolare. Mi riferisco quindi al grasso addominale, al sovrappeso, che si porta dietro l'ipertensione, che si porta dietro rischi cerebro-cardiovascolari aumentati, si porta dietro disturbi del colesterolo, della glicemia, quindi anche un diabete all'inizio latente, ma anche un franco diabete, un sovrappeso, la pancia al grasso uguale sedentarietà, che è un terribile, nessuno si muove più, nessuno dimagrisce più e ci si incancrenisce in questa situazione che porta con sé tutto il negativo per il sistema cardiovascolare. Quindi basterebbe buttare giù la pancia non solamente per avere una linea, per sfoggiare una linea migliore, ma soprattutto per prevenire tutta una serie di disturbi. Assolutamente, se va giù la pancia con l'esercizio, con una buona dieta, anche tutto ciò che ho detto prima sicuramente deve migliorare e quindi c'è un guadagno generale che è meraviglioso. Professor Montorsi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a voi, arrivederci. Occhio alla pancia, anche alla sua. Grazie, arrivederci. Pancia, misurati la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia. Allora, non tratteniamola, perché quando si parla di pancia viene subito viene voglia di provare a buttarla un po' indietro. Invece noi la lasciamo bella comoda e prendiamo il centimetro e ce la misuriamo. Sì, non soltanto non tratteniamola, ma non studiamo nemmeno abbigliamenti ad hoc per non farla vedere. vede, parlo da esperto, perché a questo punto uno inganna il resto della popolazione, però non inganna né se stesso né la sua salute. Ecco. Perché di solito uno si veste con i colori scuri. Ci sono degli studi molto, molto, molto precisi da questo punto di vista, per averla ma far finta che non ci sia. Potremmo anche chiedere la consulenza dei nostri ascoltatori, quindi raccontateci come cercate di mascherare la vostra pancia se l'avete, ma soprattutto provate a rispondere alla domanda di oggi, che permetterà al primo di voi che ci chiama all'800 24 00 24, dandoci la risposta giusta, di ricevere a casa un libro di Pierre Pallardy, La salute viene dalla pancia. Allora la domanda è: qual è lo sport in cui la pancia non rappresenta un limite ma un vantaggio? Dovete naturalmente individuare lo sport e provare anche a dare una motivazione. 800 24 00 24, dottor Confalonieri, centimetro. Sì, oggi mi fate dare i numeri proprio in senso letterale. Facciamo una seconda misurazione. Spero che stiate facendo la prima e stiate confrontandovi un po' col vostro livello di salute. Adesso, riprendendo quanto diceva il professor Montorsi, e cioè quanto la pancia e il grasso accumulato a livello della pancia sia un indice di rischio specifico per tutta una serie di patologie che caratterizzano il nostro tempo e la nostra civiltà, passiamo a fare un'altra misurazione. Misuriamoci il girovita, non tanto per costruirci l'abito elegante, quanto per capire anche questo fattore di rischio, quanto potrà incidere sulle nostre prospettive. Come facciamo? Prendiamo un centimetro, l'ideale sono proprio i centimetri quelli da sarto o da sarta, adesso un po' spariti, ma insomma in casa dovremmo trovarlo, o comunque qualcosa di analogo, e misuriamo la circonferenza della pancia prendendo un punto che sia più o meno intermedio tra l'osso del bacino, dell'anca e l'ultima costola. Ma se io prendo per ad esempio l'ombelico non no, va bene? No, è un po' impreciso, perché poi l'ombelico risente anche della distribuzione del nostro grasso, dell'età, della forma della pancia, di cui magari parleremo più avanti. Questo esatto, mi piace. Perché non tutte le pance sono uguali. Comunque, ecco, per la massima precisione non è necessaria. Vabbè, dai, da questo occhio. Punto di vista, facciamo due o tre respirazioni profonde, proprio perché non incidano né la postura né la quantità d'aria contenuta e il lavoro diaframmatico, e misuriamo il nostro girovita. Una volta che l'abbiamo misurato, possiamo avere dei dati di riferimento che indicativamente sono 100 per gli uomini e 90 per le donne, o qualcosa meno anche per le donne. Se siamo superiori a questi valori, 100 centimetri, 85-90 centimetri per le donne, la nostra è una pancia a rischio. Viceversa, le cose vanno meglio. È ovvio che questo è un dato molto grezzo, sì, perché poi anche la struttura, sui valori, la statura, si pensi soltanto a quella che può essere la larghezza del nostro bacino e quindi la nostra cassa toracica e quanto possa condizionare questo valore. Però questo è un primo valore di riferimento molto molto utile ed importante. 800 24 00 24. Abbiamo dato i numeri, due numeri, l'indice di massa corporea e la circonferenza addominale, ma vi daremo anche tanti consigli pratici. Ho 48 anni. E come tutti quelli della mia età, dopo i 45, mettiamo su quella pancettina rassicurante. Per noi è un compagno di viaggio ideale. È utile, anche in macchina ti appoggi il gomito sopra, davanti alla televisione che stai lì così. È bello, capito? E invece non puoi, perché viviamo in una società che si nutre di immagine, quindi devi sempre essere in forma e tua moglie te lo fa garbatamente notare. Peccato, perché sembri giovanile, terribile parola, il boilerino davanti, orca miseria, e allora ti arrendi e fai come fanno molti miei coetanei, vai in palestra. Voglio salutare il professor Ferdinando Cereda, che è qui in studio con noi, è docente all'Università Cattolica di attività motorie preventive. Buongiorno a tutti. Professore, allora, chi ha la pancia cerca, se magari sensibilizzato anche dalle informazioni che riceve dal medico o spinto, come diceva Giacobazzi, dalla moglie, a buttarla giù. Poi si vive assolutamente bene anche con un po' di pancia, anzi io sono sempre, a me piace, no? Un po' morbida, ma sicuramente l'attività fisica è uno strumento per tenere sotto controllo la nostra pancia e per cercare di ridurla, tanto che si dice, no? Quando un uomo si sposa dice ho iniziato, ecco, le maniglie dell'amore, la vita sedentaria, insomma la pancia dice molto del nostro stile di vita. Purtroppo sì, nel senso che, come ha detto prima il professor Montorsi, la cosa che bisogna prestare attenzione a quello che è il discorso del giro vita, a parte il discorso estetico e o funzionale, è anche purtroppo che a lungo termine un eccesso di quella che può essere definita il grasso viscerale, cioè quello che sta intorno all'addomala, quella ancora meno, è quella un po' più profonda che dà fastidio, può indurre a lungo termine quello che è un discorso relativo alla salute. Sì. E allora grazie a questi monitoraggi e poi a entrare anche più nello specifico per vedere poi effettivamente quello che è, come si diceva prima, anche il giro vita relazionato all'altezza del soggetto, al peso del soggetto, può dare indicazioni quando uno deve decidere di intraprendere quello che è un programma di attività fisica o cercare di ridurre questo giro vita. Diciamo subito che cosa non serve. Il falso mito è quello che sostanzialmente facendo molti addominali o facendo tanti esercizi che potenziano la muscolatura addominale si possa dimagrire in maniera localizzata sul giro vita. Quindi l'addominale non serve a buttare giù la pancia, possiamo dire così? No, diciamo che tende, a volte ad avere cose molto importanti, un coinvolgimento molto importante in ambito posturale, quindi quello qua è il mantenimento della postura e prevenire eventuali problemi legati anche a mal di schiena o l'attività fisica che uno può svolgere, non permette ancora oggi quello che può essere definito dimagramento localizzato. Quindi non è che se io faccio 1000 addominali io dimagrisco lì. Perché uno vuole la tartaruga. Leggevo l'altra volta da qualche parte, forse su internet oppure un messaggio, ne parlavo con Laura Vanossi, cosa serve avere la tartaruga sulla pancia se hai un cricetto in prognosi riservata in testa. Liliana dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Liliana, non c'è più. Antonio da Verona. Buongiorno. Buongiorno, avevo dato la precedenza a Liliana, ma Liliana non risponde. Sentito. Eccola a noi, a lei. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Posso dare la risposta? Si tratta della domanda che ha fatto. Sì, qual è l'attività? Intanto la rifacciamo. Qual è l'attività in cui la pancia non è uno svantaggio, ma anzi un vantaggio, ecco. Ma attività sportiva chiaramente. Certo, qual è? Io direi lancio del peso. Lancio del peso. Dottor Confalonieri, che è stato lui veramente a pensare a questa domanda. Io volevo pensarne ad una più cattivella, invece il dottor Confalonieri ha detto no, facciamo questa, che è semplice, invece è semplice? La domanda non è così semplice come sembra. La risposta ha una sua logica, ma purtroppo è sbagliata. È sbagliata soprattutto perché nel lancio del peso la velocità con la quale noi riusciamo a ruotare, quindi a spostare il nostro corpo per poi dare forza al lancio stesso, oppure la velocità con la quale riusciamo a caricare il nostro corpo per poi lanciare, è fondamentale. Ed ovviamente una pancia, quindi un aumento di peso molto significativo, riducono questa velocità e riducono anche la nostra efficienza. Quindi in questo caso direi che la risposta purtroppo è sbagliata. Alessandro ci scrive il nuoto, perché la pancia aiuta al galleggiamento, come la vescica natatoria. 800 24 00 24. Professor Cereda, allora abbiamo detto già gli addominali, fate meno fatica, cioè è inutile che si faccia fatica, no? No, tanto allora, la pancia non il scende. Il problema è questo, che per poter avere degli effetti positivi con l'esercizio fisico, purtroppo o per fortuna, bisogna far fatica. Allora se uno ha un tempo abbastanza risicato, visto quello che abbiamo tutti noi oggi per poterci dedicare a fare attività motoria, bisogna cercare di ottimizzare quelli che sono i tempi, finalizzandoli a quello che è l'obiettivo che io voglio raggiungere. Allora sì, continuiamo pure a fare gli addominali in maniera corretta, con gli esercizi corretti, perché servono come muscoli, come ho detto prima, al contenimento dei visceri, alla postura, al portamento e tutto. Insomma, la tartaruga dovrebbe servire. Quello, ma per la famosa... il potenziamento muscolare in quella direzione può anche dare quegli effetti. Però diventa più articolato e, se vogliamo, diciamo così, specifico quello che è il lavoro, quando io devo cominciare a metabolizzare l'energia che ho accumulato in eccesso, cioè il grasso, quindi la pancetta. E poi il problema, dottor Confalonieri, è che meno chili si hanno da buttare giù, e più è difficile. Cioè, una persona che deve perdere molti chili si mette a dieta, inserisce un po' di attività fisica e vede il risultato. Chi invece deve sfilare un po' La pancia, lì è un po' più difficilino, ma noi oggi con il vostro aiuto daremo dei consigli. Giuseppe da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno. Giuseppe, pronto? Noi la sentiamo benissimo. Sì, benissimo. Grazie. Io faccio un infermiere, ho lavorato col dottor Montorsi, professore, oggi. Ah, peccato, non vi siete incrociati per un attimo? No, è stato un piacere sentirlo. Sì. Io, da quando ho lasciato il dottor Montorsi, ho messo su 60 kg. No. Chiamiamolo subito, lo inviti a venire da lei a passare il weekend. Come mai, no, Giuseppe? Ho messo su 60 kg perché sono diventato papà, nel frattempo 5 figli, tutta la vita sedentaria. Ma 60 kg sono tantucci. L'anno scorso, un anno e mezzo fa, mi sono un pochettino guardato, sono arrivata alla 66 d'Italia, quindi di pantaloni, una roba enorme. Sì. E ho detto, qua bisogna fare qualcosa. Mia figlia insisteva che volevo un cagnolino, allora ho preso sto cane. Sì. Iniziando a portare il cane la mattina, ho cominciato a fare delle belle camminate e poi a correre. A distanza di un anno e mezzo, controllando un po' la dieta e andando a correre tutte le mattine, stamattina mi sono pesato, sono 100 kg. Quanti ne ha persi? 50, 60, quanti? Ho perso quasi più di 50 kg. Allora... Giuseppe, solo camminando e poi inserendo la correndo, sì, anche due volte al giorno, nel senso che la mattina l'ho preso come impegno, con regolarità, con costanza, ho eliminato i grassi, un po' di carboidrati, mangio meno pane. Senta, però ogni tanto vada dica al professor Montorsi di venire a trovarla, perché secondo me no, male non le può fare. Intanto no. Giuseppe, complimenti, e proprio con quello che voi consigliate sempre come medici, il dottor Confalonieri ce lo dice sempre, camminate, io aggiungo anche sorridete, che sono veramente due strumenti che ci portano al benessere, però camminate, ma le cose semplici spesso non ci piacciono. Lo so, perché sono alla portata di tutti. Sì, no, più che altro sono le cose forse che uno considera troppo semplici e troppo banali perché possano funzionare, e invece purtroppo sono quelle che di base, come base, rappresentano quelle che sono le sane abitudini che uno dovrebbe avere. Lui, l'infermiere adesso, intanto complimenti per i 5 figli anche per i 50 kg, ma ne ha messi 60 prima, quindi deve perderne 10. Però il discorso è che lui ha dato l'esempio classico di quello che uno inizia a fare per poter iniziare a metabolizzare, quindi consumare più energia di quella che sostanzialmente avresti bisogno per metabolizzare il grasso in eccesso. Dottor Confalonieri, però ci sono delle persone che dicono, ma io cammino. Noi oggi vogliamo invitare gli ascoltatori a utilizzare il contapassi, poi abbiamo un progettino per voi, ve lo raccontiamo subito dopo. Io cammino, mangio regolarmente, no? Eppure vedo che nell'ultimo tempo il grasso si affeziona al girovita. In questi casi è molto difficile smuoverlo, perché bisogna fare più fatica, investire di più nell'attività sportiva, nell'intensità, nella durata. Dottor Confalonieri. Diciamo che se siamo aumentati di peso, in particolare siamo aumentati di percentuale di tessuto grasso, inevitabilmente vuol dire che stiamo consumando meno di quello che introduciamo. Ci sono santi, non ci sono giustificazioni. Quindi facciamo troppa poca attività fisica, comunque mangiamo troppo. Quindi non ci sono alternative. L'alternativa più semplice è mangiare meno, l'alternativa più sana è fare un po' più di attività fisica. Questo direi che è fondamentale. Poi, come accennava il professor Cereda, rassegniamoci al fatto che il grasso si localizzi laddove vuole, rispondendo a determinate leggi genetiche, e quindi tutto sommato, se siamo aumentati poco, 2-3 kg, se anche si è localizzato tutto lì, è un problema più estetico che di effettiva salute. E soprattutto la telefonata del nostro simpatico ascoltatore di prima ci dà due indicazioni che secondo me sono fondamentali. La prima: per poter fare attività fisica dobbiamo inserire l'attività fisica nella nostra quotidianità. Qua il segreto è stato il cane, cioè ha inserito quella che era la possibilità di fare attività fisica in quelli che sono i ritmi della sua giornata. La seconda, la mia vecchia parola d'ordine, che però in questo caso è ancora più importante, gradualità. Lui ce l'ha detto tra le righe, ha cominciato a camminare col cane, adesso corre 2 volte al giorno. E quindi quello che fa risulta sempre efficace perché ha aumentato gradualmente nel tempo. Prima di andare ai mercati devo assolutamente dare la linea ai mercati e al meteo e ringraziare Carmelo Lauricella che in regia la parte tecnica. Ci sono delle attività, ma in faccia un piccolissimo elenco di pochi secondi che funzionano di più sulla pancia, professor Cereda? Quelle che coinvolgono la maggior parte delle masse muscolari protratte nel tempo. Cioè? Camminare, nuotare, andare in bicicletta, lo sci di fondo, visto che andiamo verso l'inverno, magari qualcuno gli si può dedicare, i balli di gruppo, quindi attività veramente molto coinvolgenti. Total body. Total body. Essere e benessere. Mela o pera, 800 24 00 24, o se preferite cosa dice il vostro centimetro, la vostra calcolatrice. A proposito di calcolatrice, dottor Confalonieri, qua bisogna ripetere la formula dell'indice di massa corporea, una formula che lei ha dato, ma alcuni ascoltatori vogliono riascoltarla. Tra l'altro mi scrive un'ascoltatrice: la formula per calcolare il sovrappeso vale anche per le donne? Risposta: sì. La mamma aggiunge: ho la tartaruga ma è girata dalla parte opposta. Vi prego di ridire la formula e soprattutto in modo molto semplice, al quadrato. Dottor Confalonieri, cosa vuol dire? Allora, la formula numero è per numero. Prendiamo il nostro peso, facciamo un altro esempio, poniamo di pesare 70 kg. Lo dividiamo per l'altezza in metri, quindi poniamo che uno sia alto 1,75 m, vuol dire 1,75, e questa altezza in metri la eleviamo al quadrato, cioè vuol dire moltiplichiamo 1,75 per 1,75, cioè per se stesso. Abbiamo un rapporto, questo rapporto ci dà un risultato e su valutiamo questo risultato. Noi lo valuteremo. Esatto. In linea con noi abbiamo Anna Valeria che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente, io volevo rispondere alla domanda, però c'è qualcuno che mi ha preceduto e quindi nella risposta. Sì, perché abbiamo è Aldo da Padova che è in linea con noi. Aldo? Sì, buongiorno. Buongiorno Aldo, buongiorno. Stia lì perché so che lei ha una risposta per noi. Anna Valeria, sì. Mi dica. Volevo dire che lo sport più adatto sia il nuoto, perché quando si è in sovrappeso, insomma, la mole, insomma, affatica chi fa lo sport, quindi forse il nuoto è migliore perché sostiene un po' di più il corpo, ecco, l'acqua. Ma lei mi dice che quindi lei suggerisce il nuoto per smaltire, per sfilare un po' la pancia? Sì, sì, sì. Ma diciamo che la risposta non è corretta, nel senso che la pancia non è un vantaggio per chi nuota. Indubbiamente è lo sport più adatto alla persona in sovrappeso che vuole fare un'attività total body, come si diceva prima, Esatto. Perché non c'è un sovraccarico a livello articolare. Però non abbiamo mai visto nuotatori con la pancia primeggiare, perché c'è ovviamente una resistenza all'avanzamento in acqua che è molto più alta. Andiamo ad Aldo che ci chiama da Padova, è già in linea con noi, l'abbiamo già salutato. Aldo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei. Io niente, telefonavo per lo sport, secondo sì. me il sumo. Il sumo è un vantaggio, per avere la pancia per il sumo è sì. un vantaggio, proprio perché sì. lei vuole abbozzare un centro più basso e ha una distanza dal punto di presa dove si cercano di pigliarsi per buttarsi fuori dal cerchio che aumenta teoricamente. E quindi Aldo ha dato la risposta esatta, dottor Confalonieri. Sì, sì, la risposta esatta, bravissimo Aldo, ha dato anche una motivazione, ma non è un lottatore di sumo, vero lei Aldo? No, guardi, è non come... ho il adatto, sente... peso una settantina di chili, quindi... Aldo, lei ha un po' di pancia? Confesso. Sì. Può anche essere un punto a suo favore, l'importante è quando è che diventa un problema per la salute, non solo per dottor Confalonieri? Beh, abbiamo dato prima questo valore del giro vita che è il valore indicativo, magari cerchiamo di fermarci un po' prima dei 100 per l'uomo e degli 85-90 per la donna, ma se no possiamo stare relativamente tranquilli. Poi dobbiamo anche un po' valutare, accennava prima alla forma della pancia, perché non tutte le forme sono uguali e non tutte hanno la stessa caratteristica. E qua bisognerebbe scrivere veramente un libro, perché guardare le pance hanno una loro poesia. C'è la pancia alta che parte dallo stomaco, dall'imboccatura dello stomaco. C'è la pancia scivolata sotto l'ombelico, diciamo la pancia rotolo. diciamo che molto sinteticamente, la pancia alta il più delle volte è la pancia del bevitore, dove c'è proprio un problema di gonfiore e che va oltre, o proprio problematiche diverse da quelle che sono l'accumulo di grasso corporeo, e quindi la classica pancia anche della persona magra, che poi vediamo con questa circonferenza addominale aumentata. Poi la pancia più mediana, più intermedia, è la classica pancia invece della persona in sovrappeso. Poi abbiamo la famosa differenziazione in pancia mela, pancia pera, o comunque conformazione a mela o a pera, e diciamo che la conformazione a mela è più tipica dell'uomo, quella a pera è più tipica delle donne, perché qui però si risponde a leggi genetiche, perché poi il grasso ha anche una sua funzione importante, perché è comunque la sede dove elaboriamo tutti gli ormoni, per esempio tutti gli ormoni legati alla fertilità e al ciclo femminile. Quindi questo deposito di grasso a livello prevalentemente delle cosce, del bacino nella donna, risponde anche a delle logiche legate poi alla funzione riproduttiva della donna. Non a caso alcuni studi sottolineano come dopo la menopausa anche le donne che hanno una classica conformazione a pera tendano a diventare con una conformazione più a mela. Insomma, sembra che il grasso che si accumula di solito sulle cosce, sul glutei, si sposti e vada a finire nella pancia. Di questo voglio parlare col dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno dottor Ongaro, bentornato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dottore, insomma, il corpo delle donne cambia? Sì, senza dubbio, quello che stavate dicendo è assolutamente corretto, e diciamo che riflette anche situazioni metaboliche che hanno un peso diverso sulla nostra salute, cioè il classico grasso glutei coscia tipico della donna prima della menopausa è metabolicamente meno attivo, meno pericoloso, meno connesso con malattie cardiometaboliche, e viceversa il grasso dell'addome, cosiddetto grasso viscerale, ha molto a che fare con una disregolazione del metabolismo, con l'insulino resistenza, ed è più rischioso. Purtroppo la donna nel passaggio dal pre al post menopausa, perdendo una quota determinante di estrogeni, ma non perdendo altrettanti androgeni, ricordiamo sempre che sia uomo che donna producono sia androgeni che estrogeni, ed è una questione di equilibri diversi tra i due sessi. Ecco, la donna perdendo una quota determinante di estrogeni ma continuando a produrre invece androgeni ha una leggera tendenza a mascolinizzarsi, e questo si riflette non soltanto su diciamo problemi di tipo estetico ma anche su una ridistribuzione del grasso, che appunto diventa più spesso un grasso di tipo addominale rispetto a quello sulle cosce, sui glutei. Professor Cerede, alle donne che hanno sempre svolto una regolare attività fisica, in questo passaggio dalla pre alla post menopausa è opportuno cambiare anche magari attività fisica, intensità, fare qualche cosa di diverso proprio per contrastare questo effetto che il dottor Ongaro ci ha spiegato così chiaramente? Il discorso è sempre questo: innanzitutto vedere quali sono i cambiamenti metabolici a cui una donna o un uomo possono andare incontro con l'avanzare dell'età. Poi mi stavano venendo in mente delle cose abbastanza pratiche ma che nascono da alcuni lavori fatti in termini scientifici, dove hanno visto per esempio che determinati tipi di allenamenti, cioè determinato tipo di esercizio fisico, poteva in un qualche modo aiutare quella che era la stimolazione ormonale, perché noi facendo movimento automaticamente abbiamo delle risposte metaboliche, però a seconda del tipo del movimento che facciamo ne abbiamo più o meno efficaci. Esatto. Quali sono? Io faccio un esempio molto, molto semplice, per esempio i classici esercizi che vengono fatti per il miglioramento della forza e della resistenza muscolare, si sa, ci sono delle evidenze scientifiche che in un qualche modo migliorano e inducono quello che è la risposta del testosterone anziché del GH, cioè profili ormonali. Ormoni che entrano e hanno un ruolo molto importante nell'ambito del conteggio di quello che è poi la metabolizzazione dei grassi, l'aumento della massa muscolare, che è fondamentale. E tanto di più si sta andando in questa direzione, soprattutto per le popolazioni over 45, andando quindi più in tradotto su in parole molto semplici, dalla letteratura scientifica ci dice invece che ne so, fare pesi, meglio fare la corsa. Che esattamente, cosa c'è? Cioè nel senso che a seconda del tipo di obiettivo che un soggetto deve raggiungere, bisogna indicargli anche quello che può potrebbe essere in quel momento l'attività migliore e soprattutto l'intensità con cui svolgere questo tipo di attività. Ed è quello che cercheremo di fare noi con i nostri esperti. Il dottor Ongaro lo blocchiamo con noi perché vogliamo capire anche se la nutrigenomica ci dà una mano, come e perché è importante parlare con i geni, soprattutto quando anche per predisposizione accumuliamo la pancia, magari qualche cosa gli alimenti giusti sanno suggerire ai geni. Essere e benessere. Dottor Ongaro, ma allora scegliamo la nutrigenomica, diamo la preferenza a quegli alimenti che parlano ai nostri geni, ma soprattutto li fanno funzionare a nostro vantaggio. Beh, direi qui la situazione, diciamo, l'argomento è molto complesso in realtà, perché abbiamo sentito parlare appunto di effetti ormonali dell'esercizio, e sicuramente quello è un punto molto importante, così come ci sono ovviamente degli effetti ormonali anche causati dal profilo alimentare che adottiamo. Quindi sì, nella fattispecie stiamo parlando di donne in menopausa, faccio un esempio per tutti, ma insomma l'aumento dell'introito di fitoestrogeni che possono derivare dalla soia, come possono derivare da altre piante, da altri alimenti di origine vegetale, possono trovare un ruolo nella donna proprio perché simulano in qualche modo quei segnali che dopo la menopausa vengono a mancare. Allo stesso modo direi che dopo la menopausa diventa ancora più importante tenere sotto controllo tutti quei parametri metabolici, in particolare mi riferisco a glicemia, insulina e colesterolo, che ovviamente sono legati alla malattia cardiocircolatorie, che prima della menopausa nelle donne, ricordiamo, sono perché noi donne siamo più protette, ma dopo la menopausa rimaniamo. Quindi esatto, se lei dovesse suggerire, dottor Ongaro, qualche alimento, oppure di ridurre magari o aggiungere o ridurre qualche alimento per donne che hanno si trovano a confrontarsi con questo problema magari dopo, in prossimità della menopausa, e anche uomini che vogliono finalmente prendere un po' la situazione di petto, quali che cosa ci dice la dieta? Beh, direi che le regole, insomma, sono poi quelle base che si possono trasmettere così, insomma, al pubblico generico, che sono quelle di ridurre sicuramente il carico glicemico della propria alimentazione, quindi cercare di essere molto cauti con tutto quello che riguarda lo zucchero, i cibi zuccherini, mangiare carboidrati possibilmente integrali, riducendo al minimo quelli raffinati, ma direi anche nel caso proprio specifico della donna in menopausa, poter introdurre in maniera regolare nel corso della settimana degli alimenti a base di soia, possibilmente cercando ovviamente quelli di qualità garantita, di buona qualità, proprio per diciamo contribuire a mantenere un certo grado di segnali estrogenici, che sono importanti ovviamente anche per il discorso delle ossa. Poi qui andrebbe anche aggiunto, non è ovviamente tema della trasmissione, ma è tema per ogni donna che si avvicini all'età della menopausa, rivolgersi al proprio medico per verificare se c'è un'indicazione o meno a fare una terapia ormonale sostitutiva, che ricordiamolo, se fatta nella maniera corretta, può avere dei grandi vantaggi su queste problematiche. Grazie dottor Ongaro, ci sentiamo prestissimo. Intanto ricordo che il dottor Ongaro è uno degli esperti del nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere, in cui ogni giorno vi invitiamo, perché in compagnia dei nostri ospiti impariamo a prenderci cura della nostra salute. Diego da Milano, buongiorno, e poi Giorgio e poi Alessandro, facciamo una carrellata di telefonate e poi i consigli dei nostri esperti. Buongiorno a lei Diego, benvenuto. Buongiorno, grazie per il benvenuto, saluti naturalmente a lei e agli ospiti importanti. Allora, volevo dire la mia sul fatto della di come io ho trovato giovamento proprio per la mia salute, sì, frequentando la palestra. Sì. Allora, in pratica il discorso è questo: io ho 55 anni, sono di struttura, sono molto alto e magro, però comunque sì, come diciamo fisicamente, longilineo, non so. La pancia allora, ce l'ha o non ce l'ha? Allora, no, io adesso non ce l'ho più. Però ce l'aveva, vero? Ce l'avevo, che poi quando uno è magro così è peggio ancora. È peggio, certo, è vero. Si vede anche meglio tutti, si vede di più, quindi meglio tutti morbidi piuttosto che secchi secchi con la pancia. Diego, che cosa ha fatto per buttarla giù? Perché lei è andato in palestra. Sì, allora, infatti io perché... cioè c'è anche il problema del colesterolo un po', il dottore mi aveva detto prova a fare un po' di quindi Diego, allora Diego è andato in palestra e si è trovato bene. Quante volte alla settimana? Allora, io faccio 3 allenamenti alla settimana, però non faccio pesi o cose così. In pratica mi metto sulla ellittica, si chiama così? Sì, esatto. E ci sto un'oretta. Un'oretta, però sull'ellittica si fa fatica. Diego, sì. Aspetti che chiediamo al professor Cereda, dall'esperienza di Diego. Quindi la palestra potrebbe essere una buona soluzione per... ma quali esercizi? Allora, il quale esercizio? Sicuramente oggi tutti dicono che l'attività integrata è quella che dà i migliori risultati in termini brevi e in termini medi e a lungo termine per il controllo del peso corporeo, quindi anche la diminuzione della pancia, se vogliamo. Lui ha detto una cosa interessante: lui è un soggetto magro. Attenzione a non confondere quello che è il discorso del giro vita della pancia con i fattori di rischio associati, perché noi stiamo parlando di pancia, qualcuno può pensare al grasso, quello definito sottocutaneo, quello che non permette la tartaruga. Certo. Noi facciamo riferimento invece a quella distribuzione importante che è il grasso viscerale, che purtroppo ultimamente su chi si fa monitorizzare c'è anche nei soggetti tendenzialmente magri. Cioè quelli che appaiono magri. Dottor Cofalonieri, vede che stanno anche peggio. E per poter essere tutti un po' esatto, oltre anche a dare forma. La palestra rappresenta oggi un ambiente, oggi parlando di data attuale, dove ci sono tutta una serie di attrezzi. Quali, ad esempio, allora, che lui ha citato una macchina cardiovascolare, l'ellittica, che è un movimento che simula il cammino sospeso per aria, diciamo così. Lei è in appoggio con i piedi, muove gli arti, però non ha un carico sostanziale del peso, perché non c'è l'effetto dell'impatto del piede a terra. Specie di passeggiata nello spazio. Simulatori aerobici sono il treadmill o tapirulan, dove ti permette di poter camminare o correre o simulare il cammino in salita. Poi esistono le famose ciclette, chiamate così, ma oggi sono molto tecnologicamente evolute anche per il tipo di parametri che danno, quindi attività di cardiovascolare nell'ambito della simulazione aerobica. Chiaramente, sposando anche quello che penso sia il pensiero del dottor Confalonieri, è chiaro che avendo la possibilità, queste sono tutte attività che andrebbero svolte all'esterno. Però poi esistono tutta un'altra serie di attività che servono per il mantenimento della massa magra, del metabolismo, che purtroppo l'attività aerobica non aiuta, quindi queste attività non aiutano. E parliamo degli esercizi che possono essere svolti a corpo libero per chi lo può fare, con i bilancieri, con i manubri o con le attrezzature, con le macchine, che permettono di stimolare la forza muscolare. Però, dottor Confalonieri, aspetti che devo salutare Giorgio dalla provincia di Bologna, resta che le cose più semplici sono poi quelle che funzionano di più. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Volevo salutarla perché noi abbiamo ancora un po' di minuti in chiusura, ma sennò la perdevo. Grazie. Mi racconti rapidamente? Io non sono di Bologna, passo da Bologna, ma sono di Treviso. Bene, la saluto ugualmente. Mi dica. Il mio slogan è: la fatica dello sport è il prezzo della salute. Beh, dottor Confalonieri, ecco. Ma lei fatica molto? Può essere anche uno sport. Ho fatto tanto sport, adesso qualche anno in più, ho fatto una ventina di anni di sci di fondo e lo consiglio a tutti perché è uno sport... praticamente che distribuisce tutto. Sì, è quello che abbiamo definito total body e aiuta anche, oltre a essere divertente, per metterci di stare nella natura, perché col dottor Confalonieri portiamo avanti questo messaggio: dobbiamo anche avere piacere nel fare le cose, non vogliamo soffrire tanto, vogliamo stare bene. Dottor Confalonieri. No, direi che lo slogan del nostro amico è sicuramente condivisibile da chi ha una predisposizione alla fatica, perché poi c'è anche il profilo psicologico di ciascuno di noi, per cui per molti di noi invece la fatica diventa il motivo per non fare assolutamente sport, e allora diventa grave, perché non facendo nulla la nostra salute sicuramente non ne beneficia. Da questo punto di vista, proprio per quelli che non amano la fatica, una ricettina semplice per agire in modo efficace sul sovrappeso e quindi anche sulla pancia. Datevi questo compito minimo: prendete un contapassi, si trovano ormai a prezzi assolutamente accessibili presso le farmacie specializzate, e proponetevi di fare durante la giornata almeno 10.000 passi al giorno. È un traguardo ambizioso, ma non troppo. E in particolare, se camminate per un periodo di tempo relativamente lungo, quindi oltre i 5-6 minuti, cercate di darvi una frequenza cardiaca di riferimento che sia pari alla vostra frequenza cardiaca a riposo aumentata del 50%. Semplifico ulteriormente. Bravo, perché sa che noi siamo... io sono un po' ignorante. Avete una frequenza cardiaca a riposo a risveglio di 60, camminate con una frequenza di 90. Avete una frequenza di 80, camminate una frequenza di 120. Non sentirete la fatica, ma se lo fate per un numero adeguato di passi starete subito meglio. Allora, rapidamente, intanto vi ringrazio, vi saluto tutto, ma si va in farmacia, si prende il contapassi, ok, poi alla mattina mi misuro la frequenza a riposo, ok, poi quando cammino, quando se cammino dopo 5 tempo di camminare per un po' di minuti, cerco di farlo con quella frequenza cardiaca che sia il 50% più alta della nostra a riposo. Ok, allora noi abbiamo capito, se avete dei dubbi scriveteci perché il dottor Confalonieri vi segue. Grazie al professor Cereda, grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito, al nostro mitico dottor Confalonieri. 10.000 passi e poi, no? Qua e poi si via. Va. Via, via. Un saluto. Anch'io devo andare, vi saluto, a domani. Essere e benessere.